queste giornate, perché la prima è stata pubblicata lunedì sera tramite anche un intervento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, abbiamo visto un set di cinque foto principali rappresentanti appunto cinque oggetti cosmici. Nella prima, che forse è la più importante, la più rappresentativa, abbiamo visto un minuscolo angolo di cielo in cui si nascondevano centinaia e migliaia di galassie. È una delle immagini più profonde, nel senso che ci sono galassie che sono molto antiche, quanto antiche, stiamo parlando di galassie vecchie più di 13 miliardi di anni, quindi stiamo vedendo veramente gli albori dell'universo, le galassie appena nate sostanzialmente. Quindi questa è un'immagine molto molto importante anche da un punto di vista scientifico, quindi questi dati potranno proprio essere usati anche da un punto di vista scientifico, perché ci permettono di studiare appunto oggetti molto antichi in una fase della loro evoluzione, diciamo quando erano ancora dei bebè, ecco, se così si può dire. Nelle altre immagini invece sono rappresentati più oggetti, se vogliamo, al momento scenografici. Chiaramente era una prima volta per questo telescopio spaziale, quindi hanno voluto mostrare al mondo le capacità su degli oggetti molto conosciuti nel cielo, che sono sempre stati fotografati grazie alla loro apparenza meravigliosa. Quindi con il James Webb abbiamo visto quanto più belli sono ancora questi oggetti visti con un occhio molto più potente, che è quello del James Webb Space Telescope, che è il telescopio spaziale più potente che abbiamo mai costruito e mandato nello spazio. Quindi abbiamo visto due nebulose, cioè due resti di stelle morte, un resto di stella morta che ha disperso i propri gas nello spazio, e un altro tipo di nebulosa che è un insieme enorme di gas dentro il quale si formano stelle a ripetizione. Quindi oggetti meravigliosi, ma che hanno anche tanta scienza da dirci, da raccontarci. Uno dei concetti più controintuitivi per noi non addetti ai lavori è l'idea che ciò che fotografiamo non è l'universo così come ora, ma così come era un po' di tempo fa. Ecco, spiegaci un po' questo fenomeno. L'universo è molto, molto grande. La cosa più veloce che esiste nell'universo è la luce, che pur essendo molto veloce, perché viaggia a 300.000 km al secondo, cioè in un secondo percorre 300.000 km, rapportata alle distanze cosmiche è incredibilmente lenta, tenendo conto che ad esempio la stella più vicina, il sistema stellare più vicino a noi, che è Proxima Centauri, dista la bellezza di 40.000 miliardi di chilometri, ovvero la luce la luce prodotta da questa stella impiega oltre 4 anni per arrivare qua da noi. Quindi viaggiando a 300.000 km al secondo impiega oltre 4 anni a percorrere la distanza che ci separa dalla stella più vicina. Qua stiamo parlando delle galassie più lontane, sono distanze che sono anche difficilmente comprensibili dal nostro cervello, perché stiamo parlando di 13 miliardi di anni luce di distanza. Che cosa significa? Che la luce viaggiando a 300.000 km al secondo impiega 13 miliardi di anni a percorrere la distanza che ci separa da questa galassia, da queste galassie insomma che sono state osservate dal James Webb. Questo vuol dire che per capire quanto è grande la distanza percorsa dalla luce in questi 13 miliardi di anni, basta fare un calcolo molto semplice, basta moltiplicare la velocità, diciamo usare 300.000 km al secondo per il tempo che è stato impiegato a percorrerla. Qui abbiamo un numero che da dire è davvero complicato perché è enorme, però questo cosa significa? Significa che la luce partita da queste galassie ha impiegato 13 miliardi di anni ad arrivare a noi, quindi questa luce che stiamo vedendo è la luce di com'era questa galassia 13 miliardi di anni fa. Quindi noi effettivamente non la stiamo vedendo come è adesso, oggi 13 luglio, la stiamo vedendo come era 13 miliardi di anni fa, e questo lo possiamo rapportare a tutte le distanze cosmiche. Ritornando a Proxima Centauri, ho detto che la luce di queste stelle impiega 4 anni per arrivare a noi, quindi quando noi la vediamo oggi, la luce, in realtà stiamo vedendo la stella come era 4 anni fa, perché la luce ha impiegato 4 anni per arrivare a noi, ma in questi 4 anni non è che ci sta mostrando come questa stella evolvendosi in questi 4 anni, semplicemente una fotografia di questa stella 4 anni fa, così come la luce di queste galassie, una fotografia di queste galassie, ma come erano 13 miliardi di anni fa, e non abbiamo assolutamente il modo per vedere come oggi in tempo reale, proprio a causa del fatto che la velocità della luce è finita e non è istantanea. Se la velocità della luce fosse infinita, allora vedremo tutti gli oggetti come sono in questo momento in tempo reale. Il lancio di questo nuovo telescopio, che implicazioni ha e avrà sulla ricerca? Abbiamo già visto un antipasto tra ieri e l'altro ieri, letteralmente cambierà completamente le nostre conoscenze del cosmo, le migliorerà in una maniera clamorosa, proprio perché ci mostra dettagli che nessun telescopio era stato in grado di mostrarci prima, e quindi necessariamente la qualità, il dettaglio dei dati che ci sta, che iniziato a mandarci è qualcosa che è perfino oltre le più rose aspettative degli scienziati, e per cui con dati, con immagini di una simile qualità possiamo fare analisi molto ma molto più approfondite, sia per lo studio delle galassie sia per capire l'evoluzione delle galassie più distanti, come detto prima. Un'altra cosa importante che ci permetterà di studiare, ieri ne abbiamo visto un anticipo, le atmosfere di pianeti in orbita attorno a stelle diverse dal Sole, che è una cosa che richiede una precisione incredibile, davvero incredibile, perché è qualcosa di estremamente complesso, ma che ci permette di studiare per la prima volta con un dettaglio mai raggiunto appunto atmosfere di pianeti in orbita attorno a altre stelle. Questa è una cosa che sfiora quasi la fantascienza. Oltre a tutta una serie di progetti secondari che si possono fare con il James Webb, alcuni magari ancora non li sappiamo perché sono poi progetti che nascono in corso d'opera in base ai dati che ci vengono mandati dal telescopio spaziale. Quindi insomma una quantità di scienza incredibile per i prossimi decenni.